2024 di Enrico Pagliarini. Iniziamo una nuova puntata di 2024 alle 15.40 minuti, bentornati, un saluto a Pietro Lacorte che oggi si occupa della parte tecnica e creativa di questo programma e come sempre ci aiuta, oltre che a Paolo Corleoni c'è anche Pietro oggi, ci aiuta per fino alle 17 con il nostro programma. Iniziamo dalla notizia di questa mattina perché la polizia spagnola ha arrestato 3 pirati informatici sospettati di essere responsabili di una serie di attacchi contro la Sony. Da molto tempo parliamo di Sony, quasi ad ogni puntata. Il network globale PlayStation della Sony è stato riattivato, ma molto si parla su tutti i siti internazionali dei problemi di sicurezza della Sony. Naturalmente da qui poi si parla dei problemi di sicurezza in generale della rete internet. Questa è appunto, come dicevo, la notizia di oggi, anche se in realtà spesso il gruppo a cui fanno riferimento questi 3 arrestati, il gruppo degli anonimi, Anonymous, ha detto di non essere responsabile degli attacchi, ma vedremo poi come procederanno le indagini. Tanto per capire che aria tira su internet, pensate che il ministro della difesa britannico Liam Fox ha detto che nel corso del 2010 il Dipartimento della Difesa britannica ha dovuto combattere contro oltre 1000 cyberattacchi. I nostri sistemi sono l'obiettivo di criminali, dei servizi segreti stranieri e di altri malavitosi che vogliono spiare il nostro personale, danneggiare il nostro sistema e rubare informazioni, ha detto Liam Fox. E sempre su questo tema, sono proprio notizie degli ultimi giorni, a proposito di attacchi informatici sempre più complessi e sofisticati, una cosa che preoccupa anche l'Alleanza Atlantica, la NATO, che ha deciso di istituire un team di esperti web per contrastare appunto i cyberattacchi. Parleremo presto anche di guerra digitale. Recentemente il Pentagono ha detto che potrebbe scattare una controffensiva militare vera e propria ad un attacco informatico. Ieri anche il Parlamento europeo ha approvato un inasprimento delle pene per i cybercriminali, quindi ci sono molte notizie che naturalmente arrivano da altre tante notizie che ci riferiscono di attacchi in rete. Da quanto tempo sentite parlare della parola cloud? Cloud collegata al mondo dei computer, di internet? Beh, da almeno molti mesi, anche se gli esperti ne parlano da molti anni. Potremmo definire il cloud computing come una estensione del nostro computer o della nostra rete domestica o quella dell'ufficio. Già oggi gran parte dei nostri dati risiede in data center sparsi nella rete internet in tutto il mondo, come dicono gli esperti, appunto, in the cloud. Nel segmento del mercato che definiamo consumer, l'azienda che finora sta credendo più nel cloud computing è Google. Tutti i servizi di Google sono residenti in rete e per utilizzarli bisogna essere collegati ad internet. Più tardi parleremo di navigazione satellitare e a proposito di Google capirete perché diciamo che bisogna essere collegati ad internet per utilizzare questi servizi. L'ultimo di questi è stato lanciato negli Stati Uniti, è un servizio che si chiama Music Beta by Google, un servizio che offre musica in streaming e in questo caso si può dire che no internet, no party. Se non c'è internet non si può ascoltare la musica. Questa settimana, all'inizio di questa settimana, c'è stato un nuovo capitolo, potremmo definirlo così, scritto da Steve Jobs presentando un servizio che si chiama iCloud. About 10 years ago, we had one of our most important insights, and that was that the PC was going to become the digital hub for your digital life. Steve Jobs dice: 10 anni fa avevamo previsto che il computer sarebbe diventato il centro della nostra vita digitale, ha detto appunto Steve Jobs lunedì al Moscone Center di San Francisco. Oggi le cose sono cambiate per un motivo molto semplice. Because the devices have changed. They now all have music. They now all have photos. They now all have video. And keeping these devices in sync is driving us crazy. Dice: i nostri terminali sono cambiati, tutti hanno pezzi di musica, foto, video e tenerli tutti sincronizzati ci fa diventare matti. In effetti è proprio così. In effetti i servizi basati interamente sul cloud, su internet, sarebbero la soluzione. Il computer portatile che ad esempio lancerà Google in luglio ha programmi per scrivere, disegnare, fare calcoli, ma i programmi risiedono su internet e per fare tutte queste cose bisogna essere connessi. Però se ci si connette a internet non c'è più bisogno di sincronizzare nulla. L'approccio di Apple è meno radicale, anche se il punto di partenza è sempre quello, cioè spostare il centro della nostra vita digitale dal computer alla rete internet. And we're going to move the digital hub, the center of your digital life, into the cloud. Now iCloud stores your content in the cloud and wirelessly pushes it to all your devices. So it automatically uploads it, stores it and automatically pushes dice it. Dice Steve Jobs, iCloud, questo servizio salva i vostri contenuti in internet e anche su tutti i vostri terminali automaticamente in modo che tutti siano sempre sincronizzati. Lo abbiamo detto altre volte. L'Apple non ha inventato il cloud computing, questa è un'interpretazione particolare. Nel caso specifico non c'è quindi solo il cloud, ma le foto, i video, le canzoni, qualsiasi altro dato è anche copiato sul nostro telefono, sul nostro tablet, sul nostro computer. Comunque, al di là di questo servizio che arriverà in autunno, e la Apple non è stata più precisa di così, perché l'autunno finisce il 20 di dicembre, pensiamo che la cosa più interessante è che nel giro di qualche mese, massimo qualche anno, tutti gli altri operatori offriranno servizi di sincronizzazione automatici basati sul cloud computing e stiamo entrando in un'era dove non dovremo più preoccuparci di dove sono i nostri dati perché saranno disponibili sempre e su qualsiasi terminale. Continuiamo tra un minuto. Numbers 2024 Numbers. L'arrivo di tablet e smartphone incide negativamente nelle vendite dei personal computer, con stime al ribasso nelle vendite mondiali. Di quanto decelera la vendita di desktop e notebook? Numbers. 2024. Questo è 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 824 0024. Beh, se volete potete anche chiamarci per una vostra considerazione su questi servizi che sono stati presentati questa settimana, ma l'argomento della seconda parte, sul quale appunto chiediamo anche la vostra collaborazione al telefono, è la navigazione satellitare, un servizio molto popolare ma che grazie agli smartphone si sta trasformando molto. Quindi numero verde 824 0024 oppure gli sms al 349 238 6666, l'email 2024@radio24.it o anche la nostra pagina Facebook. Potete trovarci digitando e cercando appunto 2024. Vi abbiamo fatto una domanda sulle vendite totali di computer, intese come la somma di desktop e notebook, che farà registrare quest'anno una crescita del 4,2% secondo IDC, mentre Gartner è più ottimista e ritiene probabile una crescita quest'anno del 9,3% con 385 milioni di unità vendute in tutto il mondo. A proposito della cannibalizzazione del mercato, secondo Goldman Sachs, citata oggi dal Financial Times, circa un terzo dei tablet venduti andranno a sostituire PC, quindi mangeranno una parte di quel mercato. Si stima che quest'anno vengano venduti dai 50 agli 80 milioni di tablet, quindi potremmo pensare che ad esempio 20 milioni di questi siano mancate vendite di computer. Tornando ai servizi cloud di cui stiamo parlando, una delle preoccupazioni maggiori che stanno crescendo negli Stati Uniti, in modo particolare al crescere dei servizi basati sul cloud, è la sicurezza. E se ricordate le notizie con le quali abbiamo iniziato questa puntata, c'è veramente da preoccuparsi. Molti si stanno domandando, ad esempio, quali saranno gli standard di sicurezza di iCloud, ma sicuramente gli standard sono segreti perché per essere sicuri devono essere segreti, quindi nessuno saprà mai come saranno protetti i dati e come verranno sincronizzati. A proposito dell'approccio meno radicale di Apple rispetto a Google, cosa ne pensa Carolina Milanesi, che lunedì era a San Francisco all'evento della Apple? Carolina Milanesi, lo ricordiamo, è responsabile a livello globale delle ricerche sui terminali mobili per Gartner. Sì, forse è più una visione dove la nuvola aiuta e complementa quello che tu hai sul tuo device e quindi ti aiuta a gestire, come dicevo, il contenuto, a rendere la tua vita più facile, ma non ti tiene per la gola dove tutto è solo lì. C'è chi ha posto un po' di preoccupazione sulla capacità delle reti di sostenere questi servizi. Che cosa ne pensate? Ma questo è infatti, diciamo, secondo me la cosa più interessante dal fatto che Apple non è uscito con un streaming service, dove qui hai un discorso di spostare i dati dalla nuvola al device su Wi-Fi principalmente, e anche una volta sola. Non è quindi che io devo sentirmi tutti i 3 minuti della canzone appoggiata alla rete, c'è il momento in cui la canzone va dalla nuvola al device e poi me lo sento dal device, che quindi questa preoccupazione del network va un po' via. Apple, per erogare questi servizi, ha costruito un data center gigantesco negli Stati Uniti, spendendo un sacco di soldi. Questo servizio sarà un servizio gratuito e c'è chi dice che è evidente la concorrenza che gli altri operatori del settore, Google in modo particolare, sta facendo, altrimenti Apple non avrebbe speso così tanti soldi, non avrebbe investito così tanto in questo data center. È vero, cioè si vede da questo investimento quanto è forte la concorrenza? Secondo me è più, si vede dall'investimento dove andiamo col mercato, cioè sì, è vero, la concorrenza è forte, ma è anche vero che questo è il mondo in cui viviamo. Se guardiamo a quanti dati abbiamo, a quanto adesso diventa digitale, e quindi non ho più i CD che non so più dove metterli in casa, ma ho musica, storage, che quindi ho sui miei device e devo trovarci un posto. Questo secondo me è tutte e due, non è solo la concorrenza. E riguardo al fatto che il servizio è gratuito, parte del servizio gratuito parte a pagamento, secondo me dimostra non tanto che Apple ha l'acqua alla gola e quindi deve uscire con qualcosa di molto aggressivo, ma dimostra il fatto che facendo in questo modo tengono ancora più unito il consumatore a quella che è il mondo Apple. Se prima pensavo magari di lasciare iTunes per andare a fare un Pandora, per esempio, adesso che Apple mi dà addirittura un match della musica che io ho preso dai miei CD, non ho comprato da iTunes, mi dà un match su questa musica, perché non stare con Apple di più? Durante la conferenza di Apple all'inizio di questa settimana sono stati mostrati alcuni dati, che sono dati relativi al mercato americano, in cui Apple dice siamo ancora di gran lunga leader nel sistema operativo iOS. Diamo un'occhiata però alla tendenza per capire come vanno le cose. Sì, certo, negli Stati Uniti, che è sempre da questo punto di vista un mercato di riferimento, però diamo uno sguardo a tutto il mondo. Guarda, io sorrido sempre quando mi viene fatta questa domanda, perché è ovvio che il mondo di Android si sta evolvendo ad un passo molto forte e che come installato sorpasserà Apple, semplicemente per il numero di devices che avrai nel mercato, ma ancora di più per i prezzi che hai su Android rispetto ai prezzi che hai su Apple. Guarda soltanto alla parte smartphone, l'iPhone rimane a $600, quando invece sulla parte Android hai smartphone che arrivano a $100-$120 già oggi. Quindi a livello di installato sicuramente cresce. Secondo me, poi il succo del discorso diventa qual è quello che ha più margini, qual è quello che ti fa fare più soldi come sviluppatore e quello che come utente ti dà un'esperienza più ricca. E in questo caso voi ritenete sia Apple? Ancora oggi sì. Questa è la visione di Carolina Milanese di Gartner. Mentre andavi in onda questa intervista abbiamo fatto due chiacchiere con Pietro Lacorte, che è sempre molto attento sul lato smartphone, e allora vi dirò alcune cose dopo le notizie di GR24. Prima però ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis in giro per l'Italia, viaggio nella tecnologia, dove la tecnologia viene acquistata dai consumatori. Ciao Maria Chiara, dove sei? Siamo a Collegno, siamo in provincia di Torino. Vorrei dirti subito che abbiamo raggiunto il punto vendita 1 euro col nostro navigatore satellitare. Di questo parliamo oggi, l'hai detto. E allora i consumatori che abbiamo incontrato qui, noi abbiamo chiesto se preferiscono i navigatori satellitari di tipo tradizionale, cioè banalmente per dire quelli che si utilizzano in auto, quelli per le auto, oppure se abbiano scaricato l'applicazione sul proprio smartphone. Ecco, chi lo fa, cioè chi ha scaricato l'applicazione sul smartphone, lo fa per praticità. Sentiamo cosa ci hanno raccontato. Perché già avere il cellulare più il tonton più altre cose carica troppo poi, magari in un viaggio poi diventa anche difficile portarselo dietro. È meglio avere tutto in un unico prodotto? Sì, penso proprio di sì. Ha acquistato anche il supporto per comodità? No, no. E come fa? Ma io lo uso poco, non mi serve tanto. Molti dicono che lo schermo è un po' piccolo. Boh, rispetto a un satellitare è più o meno uguale. Lo utilizza anche per muoversi in città, a piedi? Sì. Quindi è più comodo della cartina? Direi proprio di sì. 2024. Riprendiamo la seconda parte di 2024, sono le 16:07, il nostro numero verde per chiamarci in diretta tra poco, 824 0024, gratuito da tutti i numeri, anche dal cellulare. Vi ricordo che parliamo di navigazione satellitare, un servizio molto popolare, molto semplice, forse uno dei più semplici, messo a disposizione dalla tecnologia. Una tecnologia che non è solo relativa agli strumenti che abbiamo vicino a noi, ma soprattutto una tecnologia che è resa possibile dalla ricerca spaziale, perché utilizziamo dati del GPS e dobbiamo dire anche grazie agli Stati Uniti, che mettono a disposizione questo segnale militare, ma che tanti anni fa venne aperto anche al pubblico. Pensate se i militari americani, se il governo americano, cosa che difficilmente farà, ma dovesse decidere di rimettere i sistemi di criptazione nel segnale GPS. Anche per questo motivo quest'anno verranno lanciati i primi satelliti del sistema alternativo europeo Galileo, quindi ci sarà occasione per riparlarne. Esiste anche il GLONASS russo, ma usato soprattutto per servizi professionali. Saluto Massimo Morandi, direttore del magazine Cellulare Magazine e anche di Smartphone Magazine. Ciao Massimo, bentornato. Eccomi qui, buongiorno a tutti. Benissimo. Oggi parliamo di navigazione perché l'arrivo e l'avvento degli smartphone ha cambiato un po' le carte in tavola. Giusto? Giusto, ha cambiato le carte in tavola un po' in tutti i settori dell'elettronica di consumo, perché sui cellulari si sono spostati da tempo la musica, le fotografie, l'email, internet soprattutto, e adesso anche la navigazione satellitare. Tu hai detto un servizio semplice, verissimo, è uno dei servizi anche più efficace, perché funziona bene, e funziona bene devo dire un po' su tutti i dispositivi. Anche perché si capisce bene a cosa serve, andare da A a B. E io direi che una volta che è uno di quei classici servizi che una volta che lo si prova difficilmente se ne fa meno, e quindi questo ne sottolinea l'utilità, l'importanza e l'efficacia. La navigazione è passata in maniera molto, molto forte sui telefonini. È vero, rimangono i cosiddetti PND, Personal Navigation Device, quindi i dispositivi nati per la navigazione, però l'utenza si sta sempre più spostando sui telefonini e sugli smartphone. Poi magari possiamo anche vedere pro e contro, perché indubbiamente ci sono. Anzi, sicuramente, una delle domande che io ho fatto a Massimo Morandi per preparare questa trasmissione, Massimo, dobbiamo cercare, forse rispondere sarà difficile, però di abbozzare qualche risposta a questa domanda. È meglio il classico navigatore da auto che io con la ventosa metto sotto al vetro, oppure può fare la stessa cosa lo smartphone? Visto che io sono un po' scettico che lo smartphone possa fare la stessa cosa, però vediamo nel corso di questa ora, anche col contributo magari dei nostri ascoltatori, di capirci qualche cosa in più. Giorgio Buttelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Giorgio Buttelli è, lo dico come è scritto sul suo biglietto da visita, poi mi spiega bene che cosa vuol dire, Director, quindi qua capiamo, direttore Global Fields Operations per l'Europa e il Medio Oriente di Navtec. Allora, Navtec, forse tutti la conoscono, è un'azienda che si occupa di cartografia, di dati cartografici, appartiene al gruppo Nokia. Ma che cosa significa Global Fields Operations? In effetti significa che il dipartimento che io dirigo si occupa della costruzione, l'aggiornamento, la manutenzione e la gestione di tutti i dati cartografici, in effetti dell'Europa. Quel Medio Oriente è rimasto, prima di questo incarico mi occupavo di Medio Oriente ed Africa, adesso ce n'è abbastanza per gestire le banche dati di tutta l'Europa. Beh, è facile fare le mappe dell'Arabia Saudita, un po' meno quelle di Parigi, Berlino, Roma. Sì,

Dicevamo, abbiamo sentito i prezzi, beh, possiamo scendere ancora. Certamente chi vende vuole vendere i prodotti che valgono di più. In realtà ci sono navigatori a volte anche in offerta a 59 euro, forse anche 49, ma mi stupisce un po' che non vengano venduti quelli a basso costo, forse proprio perché in questo caso uno dice vabbè, ho magari lo smartphone, e invece vengono venduti quelli con qualche servizio aggiuntivo, qualche valore aggiunto. Comunque Massimo, facciamo un po' di chiarezza. Allora, pro e contro dell'una soluzione e dell'altra soluzione, laddove l'una soluzione sono i classici navigatori e l'altra sono gli smartphone. Beh, allora, i classici navigatori nascono solo per far navigare. La questione è sempre una: usare un dispositivo che fa più cose o usare più dispositivi dedicati. Al di là poi delle preferenze personali, ci stanno anche delle caratteristiche tecniche e delle peculiarità che individuano proprio i due tipi di dispositivi. Il navigatore, è stato già detto, nasce con schermi più ampi, soprattutto panoramici, cosa che sui cellulari è difficile trovare. Gli entry level fino a 99 hanno uno schermo da 3,5 pollici, poi si sale al 4,7 fino ad arrivare ai 5 pollici o qualcosa di più per i navigatori che hanno pure la TV integrata. Hanno una dotazione completa, quindi escono dalla scatola, funzionano, hanno già le mappe, quasi tutti ormai montano mappe Europa. Una volta c'era questa differenziazione che ormai si è quasi persa, perché i prezzi, la forbice dei prezzi si è molto avvicinata, e hanno naturalmente tutto il kit per essere montati in auto: la staffa di supporto, la ventosa per il parabrezza, cosa che per i telefonini, vedremo, a volte è difficile trovare, difficilissimo trovare l'originale, un po' più facile trovarla invece non originale. Ah, io ho fatto delle prove, ci sarebbe da ridere, perché guidavo con una mano, tenevo esatto, lo smartphone e andavo piano, non avevo pericolo, però facevo un po' ridere. Esatto, e poi tutte le caratteristiche native per essere usato proprio come navigatore, quindi gli autovelox, è tutto compreso. Poi quello che c'è dentro un navigatore d'auto dipende anche dalla fascia di prezzo, questo è bene dirlo, quindi gli autovelox piuttosto che tutti gli altri servizi live, ne parleremo sicuramente più avanti. I cellulari, d'altro canto, hanno una cosa fondamentale che solo i navigatori di fascia alta e gli ultimissimi navigatori più moderni hanno oggi: la connettività. Che, detta così, sembra poco, ma per avere servizi in tempo reale è una cosa fondamentale. Poi naturalmente sono piccoli, sono leggeri, sono portatili, stanno sempre in tasca oltre che in auto, quindi servono anche quando ci si muove a piedi. La navigazione pedonale sta anche crescendo molto, perché quando si naviga a piedi, naturalmente, si cammina e si va a una velocità molto inferiore rispetto a quella che si tocca con le macchine. Questo cosa significa? Significa che la mappa è piena zeppa di informazioni che ci colpiscono quasi ad ogni passo. E quindi i musei, quindi vie, quindi strade, negozi, tutti i parcheggi, punti di interesse che servono, ristoranti, banche, che spesso quando si corre in auto si perdono, mentre invece se vai a piedi sono tutti lì, e sono tutti stimoli che i produttori di servizi possono darci perché stiamo camminando. Tu hai citato un aspetto importante, fondamentale, che è la connettività, cioè anche in questo caso c'è una richiesta di questi servizi che fino a poco tempo fa erano offline, cosiddetto offline, che invece oggi si collegano alla rete internet. Ma per far cosa? Beh, guarda, perché un navigatore ha bisogno sul telefonino, ma come vedremo anche nei classici navigatori ormai succede questa cosa, di collegarsi a internet? Beh, dunque, lasciamo perdere le funzioni di browsing, di ricerca, di Google Search, che comunque possono servire su un navigatore, ma la connettività può servire fondamentalmente per due cose: per i servizi in tempo reale, e qui ci mettiamo subito il traffico, che è uno dei servizi più interessanti se davvero però funziona, e abbiamo visto che in passato molti servizi hanno funzionato male. Cioè, servizi di questo genere significa che si vede sulla strada se c'è traffico o no. Esatto, e il navigatore è così in grado di recuperare percorsi alternativi per evitare un incidente, per evitare una coda. Ma con la connettività può arrivare sul navigatore, sia esso un PND, un navigatore tipico da auto, sia esso uno smartphone, tutta una serie di servizi. Può essere il meteo, sicuramente utile quando si viaggia, possono essere gli aggiornamenti, Nello smartphone la connettività è fondamentale anche semplicemente per navigare, perché al di là del modulo GPS integrato nello smartphone c'è la rete radiomobile che aiuta moltissimo la precisione del posizionamento e quindi la facilità e la precisione della navigazione. È possibile navigare con uno smartphone chiudendo il cosiddetto AGPS, che è il servizio che sfrutta anche la triangolazione della rete mobile. Invito però i nostri ascoltatori a provare a farlo e nel 90% dei casi vedrete che non navigherete più. Cioè, quindi questo significa molto che meno preciso, è sì. Molto molto meno preciso. È importante la connettività, ad esempio, nei prodotti Android che hanno nativamente il servizio mappe di Google e hanno anche il navigatore di Google. In quel caso le mappe non risiedono sul telefono ma in the cloud, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, quindi senza la rete internet non si... Lì è un tipico caso dove non si può neanche utilizzare il servizio. Voci di corridoio ci dicono che potrebbe essere lanciata in estate forse una soluzione per navigare su Google offline, però aspettiamo, non c'è nulla di ufficiale. Invece è molto nota e molto famosa la soluzione offline, quindi che ci permette di navigare anche senza essere collegati a internet, di Nokia. Nokia Mappe o VMaps, come era chiamato fino a qualche tempo fa. Io continuo a ritenere che questa sia la miglior piattaforma per smartphone per navigare in questo momento. Funziona bene, poi al di là del funziona bene, cosa vuol dire? Vuol dire che le mappe sono chiare, che la voce guida è chiara, che i movimenti sono fluidi, che il navigatore è preciso. Tante cose che poi servono a dare un servizio utile all'utente. Tra l'altro, noi quando parliamo di navigazione dobbiamo sempre ricordare che insieme alla navigazione ci sono un mucchio di servizi. Poi questo è un servizio dove le mappe le puoi mettere sul telefonino o sulla memoria esterna del telefonino, ma l'interazione con la rete, per quello che ho appena detto, è sempre presente. Ma si hanno gli autovelox, il meteo, Nokia ad esempio due guide, la guida Michelin e la Lonely Planet, che comunque sono utili quando si viaggia. Giorgio Buttelli, le mappe, soprattutto i dati cartografici delle mappe, sono fondamentali, perché se i vostri tecnici che scendono nelle strade sbagliano le misure, poi a cascata, a catena, si sbaglia strada quando si utilizzano questi servizi. Buttelli, dico bene che ci sono, potremmo dire, due livelli, cioè il vostro livello, che è quello della raccolta primaria dei dati cartografici, e poi c'è il livello di quelli che fanno il software di navigazione, che quindi in base alle loro capacità fanno un software capace di navigare in modo fluido e veloce oppure meno capace. Ci spieghi però come è fatto il sistema delle mappe? Quello che dice è corretto. Noi costruiamo, noi come NAP costruiamo le mappe che servono un pochino per tutti questi costruttori di sistemi di navigazione. Costruiamo le mappe e ci terrei a dire, ancora più importanti, le aggiorniamo. Si consideri che noi abbiamo calcolato che apportiamo circa 2 milioni e mezzo di cambi al giorno nelle nostre mappe in tutto il mondo, per cui c'è un enorme numero di cambi apportati alle mappe. Queste mappe aggiornate vengono poi acquisite dai costruttori dei sistemi di navigazione che, come lei giustamente diceva, costruiscono il software che serve poi a scegliere all'interno delle nostre mappe qual è il percorso ottimale per arrivare a destinazione. Le strategie con cui i vari costruttori di sistemi di navigazione scelgono questi percorsi sono basati su una serie di dati che noi forniamo, tipo ad esempio l'importanza della strada, e poi ai loro algoritmi che scelgono la strada in base a strategie che ritengono migliori. È un po' come il rally, le mappe sono uguali per tutti, poi se il pilota ha un bravo navigatore vince il rally, deve anche essere un bravo pilota, però il software di navigazione è importante. Per questo, ad esempio, per anni, ma direi che forse ancora oggi, TomTom è uno dei migliori servizi, cioè il software di navigazione basato sulle mappe è sicuramente uno dei migliori. Buttelli, a proposito di aggiornamento, ci faccia capire se in una città, adesso non voglio arrivare al paese che magari è meno importante, però in una media città italiana viene fatta una strada nuova, una rotonda ad esempio, non c'è più un incrocio con il semaforo. Dopo quanto tempo viene aggiornato questo dato? Ma guardi, nelle città soprattutto bisogna distinguere due livelli. L'aggiornamento nelle nostre banche dati è se possibile quasi immediato. Noi siamo in contatto con le amministrazioni pubbliche che d'altronde adesso pubblicano anche su internet le delibere che stabiliscono una strada o che cambiano un senso unico, che cambiano o che danno un nome ad una strada. Per cui da questo la nostra banca dati viene aggiornata quasi istantaneamente. È chiaro che poi passa un certo tempo prima che questo aggiornamento arrivi all'utente finale. Un certo tempo che è dovuto al fatto che anche proprio per questioni logistiche le nostre banche dati vengono rilasciate ai costruttori di sistemi di navigazione periodicamente e i costruttori stessi poi devono immetterle nei loro circuiti per farle arrivare all'utente finale. Senta, negli ultimi tempi in quali direzioni, in quali campi, quali caratteristiche sono state migliorate? Al di là, come lei ci diceva, della frequenza d'aggiornamento, del contatto con anche punti di interesse sempre più dettagliati, in che cosa state migliorando? Ah, guardi, veramente parliamo di molteplici cambi e di un'evoluzione straordinaria delle mappe. Noi siamo passati dalle mappe iniziali che essenzialmente avevano il tracciato stradale, il nome e il senso unico, adesso a dare tutti i servizi che sono stati citati anche prima e ricito per nominarne alcuni, la navigazione pedonale, parliamo della tridimensionalità delle mappe, parliamo della descrizione di tutti i principali monumenti, per esempio con anche una visualizzazione di dettaglio del monumento. E non ultimo anche alcune delle nuove funzioni che si stanno sviluppando. Tra queste citerei quello che noi chiamiamo la guida naturale, almeno tradotta dall'inglese così com'è, che consiste nel dare all'utente una guida sul percorso da svolgere così come la darebbe l'amico, diciamo così. Cioè si prescinderà dal fra 300 metri gira a destra e si dirà gira a destra dopo la casa rossa, per esempio, in modo che ci siano questi riferimenti immediati e indicazioni seguibili in modo immediato. Questa è una bella innovazione, perché effettivamente ancora oggi ci sono dei navigatori che ti dicono esci all'uscita 348 e tu il 348 non lo vedi proprio, Massimo. Ma infatti un'altra cosa interessante, ad esempio, del navigatore di Google è che quando tu sei prossimo alla navigazione puoi fare lo switch sulla visualizzazione modello Street View e quindi ti avvicini vedendo sul navigatore davvero quello che vedi poi al di là del vetro della macchina, quindi i palazzi, le chiese e tutto quello che c'è a fianco alla strada. Sì, però proprio diciamo i navigatori Android secondo me di strada ancora ne devono fare molta, a proposito di strade. Abbiamo detto che una delle evoluzioni degli ultimi tempi dei navigatori è quella della segnalazione sul traffico. Forse sono stati i primi a fornire questi servizi sono stati gli smartphone, proprio perché, come diceva Massimo Morandi, la connettività in uno smartphone è nativa, ma negli ultimi tempi abbiamo visto che ci sono anche i classici navigatori che si collegano ad internet con una SIM. Noi non ce ne accorgiamo, ma dentro c'è una SIM annegata nel terminale che si collega alla rete di telefonia mobile, giusto? È una SIM interna non raggiungibile, non estraibile. Perfetto. Come funzionano questi servizi? Allora, diciamo, il traffico è uno dei servizi che può essere più utile quando si è in viaggio, quando si è in auto. In realtà il traffico è stato uno dei servizi più spinosi e meno ben funzionanti degli albori della tecnologia della navigazione satellitare. Il vecchio TMC, il primo TMC, ci metteva dai 20 ai 40 minuti prima di trasmettere ai terminali la notizia di un incidente, di un blocco, di un lavoro in corso. E naturalmente questo quando viaggi in autostrada non va bene, perché 20-40 minuti significa che tu arrivi vicino all'incidente prima di quanto il TMC te lo possa segnalare. Da qui sono nate diverse evoluzioni del TMC, l'Info Blu, che poi trasmette i dati via FM attraverso il canale RDS, attraverso la frequenza di RTL 102.5, che funziona sicuramente meglio del primo TMC, ma che ha cominciato ad essere a pagamento, poi qualche produttore ha scelto di integrarlo nel prezzo d'acquisto del dispositivo, altri hanno scelto di far pagare l'abbonamento annuo, però si è cominciato a capire che queste informazioni potevano essere fornite in modo più preciso e più veloce. L'ultima evoluzione di questa storia del traffico sui navigatori è quella presentata da TomTom pochi mesi fa ed è per il momento dedicata solo ai dispositivi TomTom e solo ai navigatori d'auto, quelli proprio nativi. E quelli della linea Live? Quelli della linea Live, sì. Infatti l'HD Traffic, di questo stiamo parlando, sì. È un servizio della gamma Live, che poi ha anche il meteo, agli autovelox mobili, alle postazioni fisse, ha tutta una gamma di servizi. E cosa fa? Allora, questo è un navigatore connesso. All'interno, come si diceva, c'è una SIM. Loro hanno fatto un accordo con Vodafone, quindi all'interno di questi dispositivi c'è una SIM Vodafone, e il sistema, che è gestito naturalmente da TomTom, capisce, comprende in tempo reale qual è la densità di quelle SIM attivate per la navigazione su quei dispositivi lungo le strade. Quindi un enorme serpentone colorato di SIM che si muovono. Naturalmente viene garantito ogni tipo di privacy, perché i movimenti sono controllati, ma non sono naturalmente controllati gli utenti che fanno questi movimenti. E questo è con un algoritmo particolare poi vengono fornite le informazioni sul traffico. Perché dico con un algoritmo particolare? Perché una coda può sembrare una coda e non essere una coda. 40.000 persone in uno stadio vicino alla tangenziale non fanno una coda. Quindi ci sono un mucchio di algoritmi correttivi, c'è l'intreccio dei dati anche col TMC e col servizio InfoBlu, con le telecamere di autostrade, con i sensori per il traffico, e tutte queste informazioni poi vengono elaborate, controllate, gestite e portate sui dispositivi, proprio sulle mappe che noi guardiamo mentre stiamo camminando con l'auto, e addirittura con le percentuali di colore a seconda delle percentuali e di traffico o di ingorghi. Non solo, tutto questo serve per sarebbe banale segnalare semplicemente un incidente, un blocco o un forte traffico su un'autostrada, ma serve per indicare all'automobilista con precisione quale altro percorso prendere. Esatto, e anche in questo caso la bontà del software che gestisce questo è fondamentale, perché se ci viene suggerito un percorso alternativo che però ha problemi di percorribilità, questo può essere un dramma. E perché questa cosa l'ha fatta solo TomTom? In questo caso, proprio per il tipo di funzionamento di servizio, è un servizio che può essere offerto solo da un produttore che ha la maggioranza dei suoi dispositivi in commercio. Certo, perché che ha un grande numero di diti. Allora, se non sbaglio, Garmin ha a disposizione un servizio analogo che per il momento è disponibile negli Stati Uniti. Sentiamo Lionello da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno, sono appena arrivato a casa guidato dal mio navigatore satellitare. Caro Lionello, però per arrivare a casa non serve il navigatore, immagino. Come? Dico, per arrivare a casa non le serve il navigatore. Mi serve sì, perché vengo da lontano, ho fatto circa 300 chilometri. Ah, quindi dice, dalla prima parte non sapevo. Mi ha aiutato un po' a seguire i percorsi più corretti, diciamo. In parte solamente, devo dire questo, perché ho ascoltato prima il direttore della Navtec. Beh, non è proprio il direttore della Navtec, è il direttore di una divisione. Con voi. Sì. Esatto. E io avrei un quesito da porgli, perché la società che produce il mio navigatore mi ha inviato una mail diverso tempo fa dicendo che se io pagavo una certa quota avevo un aggiornamento permanente per la cartografia, diciamo, delle mappe. Io l'ho fatto, ho aggiornato il mio navigatore già più volte e adesso il mio navigatore non funziona più bene. Per fortuna che conosco un po' le strade, certo. Ma mi porta fuori dall'autostrada, ad esempio all'inizio di una città. Senta, Lionello, mi fa percorrere una tangenziale. Qual è il produttore del suo navigatore? Il produttore è Garmin. Ecco, perfetto, deve chiamare Garmin, perché adesso... Io ho chiamato Garmin, adesso e Garmin dà la colpa a Navtec. È un classico. Quindi io vorrei chiarissimo, che Navtec e Garmin si mettessero d'accordo, certo, perché adesso il mio navigatore non funziona più. Chiarissimo, chiarissimo. Buttelli è. Adesso non voglio che lei poi ridia la colpa a Garmin, però effettivamente, come dicevamo prima, diciamo, l'intelligenza a bordo la fornisce chi fa le mappe, cioè voi date dei dati, però se lei ha una risposta. Sì, ma sai, è difficile dare una risposta senza conoscere il dato e la situazione specifica. Io senza voler scaricare la colpa o dire colpa nostra è colpa di Garmin, quello che posso dire è che come già dicevo prima, noi facciamo le mappe per tutti quanti i produttori e tutti ricevono le stesse mappe e tutti i sistemi, anche della Garmin o non della Garmin, partono da questa. Che cosa poi succeda nel caso specifico? Ci sia qualcosa sulla nostra mappa, ma questo momento io non ne ho evidenza, o faccia parte del processo di carico della nuova mappa sul sistema, o sia parte del software, non ho sufficienti elementi per poter... Comunque, preghiamo Lionello di scriverci, che così sondiamo il terreno. Io sono sempre dell'idea che è chi vende il prodotto che deve... diciamo, assumersi la responsabilità. Il prodotto è venduto da Garmin, la responsabilità è di un produttore, non può scaricare il barile. Sentiamo tra poco Paolo, però Massimo Morandi vuole dire qualcosa. Sì, solo per sottolineare che questa telefonata ci fa capire che comunque l'aggiornamento è ancora un fattore critico. Ecco perché quello che avviene per gli smartphone con gli aggiornamenti on the air addirittura, quindi un aggiornamento che viene scaricato ed è quasi invisibile all'utente, potrebbe essere molto importante per il futuro della navigazione, perché aggiornare un dispositivo, qualsiasi dispositivo esso sia, è ancora un fattore critico e qualcosa può andare storto, quindi molto probabilmente qui l'aggiornamento era anche perfetto, ma se durante l'esecuzione dell'aggiornamento stesso qualcosa non va per il verso giusto, ecco che poi il dispositivo ha dei malfunzionamenti. Paolo dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo chiedere agli esperti questa domanda. Io ho avuto due smartphone di fascia alta e un navigatore normale, tra le marche più diffuse. Ho notato che quando il navigatore normale, insomma, cerca di lo si accende, prende il contatto nel giro di pochi secondi, mentre invece gli smartphone, entrambi, questo indipendentemente dal software che si usa, ci mettono molto molto di più a prendere il segnale. Ecco, volevo chiedere agli esperti come mai a volte bisogna aspettare anche 10-15 minuti. Io ho parlato con i negozianti, però insomma non sono stati in grado di darmi una risposta precisa, come mai ci mette così tanto tempo. E preciso, questa cosa capita anche all'estero, io viaggio molto e all'estero ci mette lo stesso tempo, mentre invece il navigatore dedicato si connette in pochi secondi. Sì, problemi di fixing si dice. Adesso c'è la pubblicità, riprendiamo tra poco, cioè informazioni sul traffico per chi non ha i servizi di navigazione che abbiamo citato, sempre molto utili. 2024. Riprendiamo, poco fa un nostro ascoltatore ci chiedeva se effettivamente gli smartphone sono più lenti nel fare il cosiddetto fixing, cioè la determinazione dei satelliti che si vedono per calcolare appunto la posizione. Massimo Morandi. Sicuramente sì, se viene esclusa la funzione di AGPS, quindi la funzione della rete mobile che triangola e quindi trova la posizione in cui siamo. Questo può essere dovuto a più cose. Innanzitutto dipende dal tipo di antenna GPS che viene integrata negli smartphone, dalla sua sensibilità, ma spesso dal proprio luogo fisico dove questa antenna è. Mentre questo avviene meno facilmente nei navigatori che hanno invece l'antenna GPS nella parte superiore, perché devono gestire semplicemente meno funzioni e meno antenne. Sì. Buttelli, vuole rispondere anche lei. Voi immagino facciate molte prove sul campo per vedere se insomma, i dati che voi fornite poi alla fine finiscono in servizi utili e funzionanti. Sì, sicuramente, e posso solo confermare quello che è stato appena detto. E per noi la situazione però, al di là delle prove poi degli apparati finali, è un po' diversa, perché evidentemente i tipi di GPS che utilizziamo noi per la definizione delle banche dati e delle mappe sono GPS molto più complessi, che hanno, viene chiamata, una correzione differenziale, che sono quindi un'altra categoria di GPS, se mi passa il termine. Sì, professionali. Antonio D'Alecco, buongiorno. Buongiorno. Senta, io a parte faccio l'autotrasportatore, dunque con i navigatori mi hanno rovinato la vita, per il semplice fatto che prima per 30 anni ho sempre guidato per tutta Europa, gesti a mani, e ho sempre trovato tutto, e oggi che mi manca il navigatore perché è rotto, mi perdo. Sì, è quello che succede con la tecnologia, uno si abitua, sì. Però guardi che succede, no, anche perché tra l'altro sono anche sfortunato perché c'ho un Garmin che è difficile aggiornare, ho preso dei Becker e arrivano a casa 15 giorni e poi li devo mandare a mettere a posto che non vanno più. Beh, comunque quello che interessava principalmente a me era trovare un GPS, un navigatore per le strade bianche per andare a cavallo, per fare trekking a cavallo. C'è la possibilità di trovarlo? Bella domanda, Antonio. Io direi che sentiamo subito Buttelli, perché la domanda è: voi fate le mappe anche delle strade bianche per mountain bike, per trekking a piedi, a cavallo anche in questo caso? La risposta è che direttamente NAFTEC in questo momento non le fa. Noi abbiamo nelle nostre mappe delle strade bianche, ma strade bianche tipicamente percorribili anche da auto. E ci sono però alcuni dei nostri partner che so che producono, perlomeno a livello locale, dei sistemi di questo tipo. Sono a conoscenza ad esempio di sistemi che includono i sentieri di montagna o sistemi che includono le piste da sci, e sono fatti però da partner che lavorano con una base di mappe NAFTEC ed aggiungono poi questi altri elementi specifici. Sì, ci sono nel settore della navigazione satellitare molte specializzazioni. Abbiamo ospitato 2024 ad esempio un'azienda italiana che non sta sulla terra ma sul mare, e quindi fa cartografia e quindi dati cartografici per le barche. Massimo, esiste però tutta una serie di... infatti io volevo consigliare al nostro ascoltatore di dare comunque un'occhiata ai prodotti di Avimap e di MyNav, perché sono due aziende specializzate anche nell'elaborazione di questi dati, quindi si diceva navigatori per escursionisti, piste da sci, cicloturismo, c'è molto sul cicloturismo e i percorsi che possono essere percorsi appunto in mountain bike. E aggiungo un'altra cosa, visto che il nostro amico è un autotrasportatore, ci ha detto, nel corso del secondo semestre dovrebbe uscire un navigatore della Magellan, che è un marchio che è stato comprato dalla MIO, dalla MITAC taiwanese, che avrà proprio tutte le specifiche, punti di interesse per chi fa questo mestiere, quindi altezza dei ponti, tutti i punti di interesse che solitamente non ci sono o sono disattivati sui normali navigatori. Sì, direi che forse il mondo più vicino a quello del cavallo in questo caso per la navigazione è quello delle mountain bike, dei ciclisti che vanno su sentieri sterrati, e sicuramente i negozi specializzati in questo settore, anche i club specializzati, penso che possano saperne un po' di più. Io non vado a cavallo, quindi non so niente di questa cosa. Abbiamo terminato la puntata di oggi, però vogliamo chiuderla collegandoci con Maria Chiara Grandis per l'ultimo minuto della nostra trasmissione. Enrico, per concludere volevo dirti che qui al punto vendita Unieuro di Collegno la maggior parte dei consumatori che abbiamo intervistato ci ha detto di preferire l'acquisto di navigatori satellitari per auto piuttosto che scaricare le applicazioni su smartphone o tablet, e qui ci dicono che la differenza in genere la fanno non tanto i servizi live offerti dai nuovi navigatori, che abbiamo detto sono moltissimi, ma soprattutto lo schermo e anche qualche altro dettaglio. Allora ecco le interviste che abbiamo raccolto. Fatto al contrario, dallo smartphone sono tornato al tradizionale, perché alla fine quando stai per arrivare alla destinazione qualcuno ti telefona per chiederti se stai arrivando e tu perdi la strada. Ma dipende dall'ampiezza del video del cellulare, perché se uno ha un piccolo non vede niente, invece se un cellulare con il video abbastanza grosso va bene. Su un BlackBerry è abbastanza scomodo da utilizzare. Quindi forse sul tablet? Sì, quello molto comodo. Quelli della macchina addirittura, quelli lì già inseriti in macchina, rimane lì. Non hai problema di staccarlo. Sono autista. Quindi il navigatore tradizionale. Sì. Cioè, si connette via Bluetooth col cellulare, con lo smartphone, quindi hai tutto nel navigatore. Molto utile. Chiudiamo questa puntata di 2024 grazie a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica, grazie a Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine, che tra l'altro dedica proprio un approfondimento al tema. Per non perdersi, loro scrivono basta il telefonino. Bene, grazie anche a Giorgio Buttelli di Naftec per essere stato con noi. È tutto per questa puntata, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're